vuoi venire a morire? A stornellare, porta del vino e metti di a sedere. Puntata numero 1 di Ratto di Campagna, Topolino di Città, un programma di Radio Big World che esplorerà il mondo dell'urbanità, il mondo degli urbanizzati, di coloro che vivono in città, in grandi città, che si stanno espandendo a macchia d'olio e praticamente a vista ogni giorno e che vanno a inglobare quelle che un tempo erano vecchie campagne e vecchi paesi. Il ratto di campagna, naturalmente, sono io che vivo lontanissimo dalle luci, i colori e i suoni delle grandi metropoli, ma il topolino di città, colei che vive sotto i riflettori, è Laura! Laura! Carissimo, ciao! Sotto i riflettori e direi sotto la cupola del Brunelleschi. Diciamolo che Laura vive nella capitale, la capitale di quello che un tempo è stato il regno di cui faceva parte il mio paese, è stata capitale dell'intera nazione di cui a un certo punto anche il mio paese cominciò a fare parte e oggi è comunque la capitale regionale della Toscana, si dice. Qualche fiorentino che non è più la capitale d'Italia, forse qualcuno non lo sa. Ci piace pensare che lo sia ancora, dai, forse piace un po' anche a voi che state leggermente fuori. Touché, sì, è vero, ci piace definirla la capitale e quando ci chiedono di dove siamo difficilmente diciamo il nome del paese, ma subito è vicino a Firenze. Esatto, poi Montevarchi sarà pure in provincia d'Arezzo, o sbaglio? Amministrativamente, sì. Ecco, ma come parlate, molto più fiorentino anziché aretino, e direi per fortuna, per vostra fortuna. Siamo stati l'ultimo avamposto della Repubblica prima delle terre di Arezzo. Da noi passava il confine, c'era la dogana, c'erano i doganieri e c'erano i contrabbandieri. E naturalmente, come ogni terra di confine, aveva i suoi giocatori d'azzardo, le sue donnine allegre, i suoi mariuoli che vivevano della rendita illegale, naturalmente, che dà il confine. E questo programma, lo sappiamo, è fatto per insegnare a noi campagnoli un po' zoccoli, un po' ignoranti, un po' lontani dal bel mondo, le buone maniere, le maniere che si usano stando in città e in particolare stando a Firenze. Laura ci aiuterà in quanto lei da tempo immemorabile è fiorentina e vive a Firenze. Dalla nascita. Te lo ricordi dalla nascita, immemorabile. Facciamo una piccola parentesi, queste buone maniere stanno un po' venendo meno, viste le ultime soluzioni urbanistiche che vedono una città abbastanza in crisi di traffico a causa dei lavori per la tranvia. Le buone maniere ce le siamo un po' scordate, sono rimaste un retaggio del passato, forse come il Rinascimento. Della tranvia mi auguro che ci occuperemo poi in una puntata specifica, in quanto la tranvia da almeno 15 anni occupa le cronache e i discorsi di Firenze e provincia. Ma oggi, per essere la puntata 1 e per essere introdotti nel mondo della grande città, parleremo di gente, di tanta gente, della molta gente che c'è in città a discapito di quella che c'è in provincia. Nell'Ottocento si calcola che un uomo medio nella sua vita riuscisse sì e no a incontrare 2000 persone E effettivamente quando uno in paese esce di casa, per quante persone riesca ad incontrare, ne incontra alla fine pochissime, mentre in città è un continuo passare di persone. Comunque le pochissime persone che incontrate voi in paese valgono doppio. Ricordo mia nonna che stava in paese che disse alla mia cugina: quelle donne ti hanno scoperto che ti sei fatta le mesh. Quindi ci sono 100 occhi che ti guardano in paese, nonostante le persone siano meno. E la gente in città, Laura, tu sei abituata quando esci per strada a essere inghiottita da un fiume di gente che va e che viene in una direzione o nell'altra, cosa che per noi provinciali è piuttosto rara. Com'è questa sensazione? Come la vivi? Ti arrabbi, ti innervosisci, ti spazientisci? Guarda, se mi parli dei giorni in cui c'è veramente troppa gente, tipo sotto Natale o i sabati pomeriggio in centro, ecco sì, forse dà un po' fastidio. Sembra quasi che la nostra città sia invasa da troppe persone, che non se le meriti tutta questa confusione, che si merita gente, sì, ma ordinata, ecco, e molto spesso invece un eccessivo numero di persone dà questo senso di caos che stona un po' con la bellezza della città. Però allo stesso tempo, se vediamo una strada mezza vuota, ecco, anche a noi fiorentini ci prende un po' di tristezza. Quindi se da un lato ci lamentiamo della troppa gente, dall'altro ci fa anche piacere e ci piace osservare chi c'è, chi non c'è, il turista, il lavoratore, la ragazzina a spasso col fidanzato, ma almeno a me piace, ecco, vedere tutte le varie sfaccettature che queste persone casualmente, che incroci casualmente, ti fanno riflettere sulla società. Il turista è molto interessante, perché dal giapponese al tedesco, insomma, ci sono varie usi e abitudini che ti stupiscono anche. Quindi anche camminare senza una meta ha un suo perché. E la troppa gente, se inizialmente ti può dare un po' fastidio, poi invece ti affascina. Ecco, questo almeno è il mio pensiero. Laura, tu che sei mamma e quindi hai una bambina che porti in giro, porti fuori probabilmente anche con il passeggino, avere le strade piene di gente non è una grande comodità. Come infatti se la cavano i fiorentini? Ti dico la verità, quando posso io la mia mammina la lascio a casa, perché sta più tranquilla, sta con i suoi giochi e sta meglio, perché il caos non piace ai bambini piccoli, almeno alla mia. Però ecco, ci sono anche motivi per portarla fuori, c'è la storica giostra in Piazza Repubblica, sulla quale insomma un giro vale doppio, ecco, rispetto a una piccola giostra di uno scalcinato in una parca di provincia, c'è il suo perché. Laura, e le ore di punta? Allora, da noi sì, ci sono delle ore di punta, è chiaro, quando gli uffici chiudono, quando piccoli laboratori, le fabbriche chiudono, ovviamente c'è l'ora di punta, c'è gente che si riversa un po' in tutte le strade, però se anche per noi altri ci sembra intollerabile, le ore di punta in una città sono ben altre cose. Intollerabili, su questo vi invidio molto. Infatti io tendo sempre a non uscire se posso nelle ore di punta e evitare quelle strade in certi orari, perché la pazienza del fiorentino si sta esaurendo per il traffico eccessivo, quello sì. Viva le strade semideserte, perché poi quando sei in macchina non puoi neanche osservare più di tanto la società che ti circonda, come quando cammini a piedi. Per questo io amo camminare, amo girare anche in mezzo al casino, però a piedi, in macchina niente, non c'ha molto senso quello che ho detto prima, in macchina non vedi solamente l'ora di arrivare a casa, quindi viva le strade di provincia mezze vuote. Quali sono, Laura, le ore di punta, più precisamente, per darci un'idea di quando Firenze si anima in maniera eccessiva? Si animano le strade in corrispondenza dei ponti. Ponte alla Vittoria dalle 7:30 alle 9 è abbastanza incasinato. Okay. Ponte alla Vittoria, se riesci a superarlo in meno di 10 minuti, allora si può gridare Vittoria. E queste le ore appunto di apertura degli uffici, le ore di chiusura degli uffici, se puoi evitalo, come la peste, in quegli orari lì. Facevi riferimento prima ai turisti e effettivamente a Firenze ce ne sono tantissimi, ce ne sono una quantità. Questo è molto bello, secondo me è bellissimo, perché ti senti importante, ti senti al centro del mondo e ti piace essere visitata, ti piace che gli altri parlino di te. E per questo anche ti dà fastidio che molte cose non funzionino come si deve, perché l'immagine di Firenze poi si diffonde in tutto il mondo e dagli occhi dei turisti poi viene fuori un quadro, insomma, che ci rappresenta nel bene e nel male. E sta cosa mi piace anche, magari interagire con loro. Io mi sento utile se do un'informazione, se posso parlare inglese, ecco, con qualcuno che ha bisogno di conoscere la mia città, gli posso dire qualche cosa, lo posso aiutare a trovare una strada, un museo. A me piace, infatti, guarda, molte volte spero che qualcuno mi chieda un'informazione, perché mi piace mettermi al servizio della mia città in qualche modo. E tra la categoria di stranieri che affollano Firenze sono un numero considerevole gli studenti americani. Un'infinità di istituzioni educative più o meno note statunitensi ha aperto a Firenze delle proprie sedi distaccate e permette a studenti americani di venire per un anno o più tempo, o anche meno, chi lo sa, a studiare a Firenze. Pertanto, sì, di giorno che si confondono con i cinesi o con altri americani, ma di sera in particolare il centro di Firenze pare diventata Houston o Los Angeles. È cosa loro, soprattutto la zona di Santa Croce. Tu come la vivi questa specie di esproprio? Secondo me è un po' eccessivo. Ora io sono un po' fuori dalla vita notturna, appunto perché ho una bambina, ma quando uscivo spesso la vedevo, sì, un po' eccessiva, perché alla fine siamo a Firenze, dai, siamo a Firenze, cioè vanno rispettati anche i luoghi, perché questi, sarà colpa dell'alcol, Quelli ne bevono parecchio, capito, non che noi siamo da meno, anzi, forse voi in provincia siete più bevitori, ecco, però insomma anche il fiorentino col suo cocktail, con la sua birra, insomma, ama un po' bivaccare per il centro, però questi studenti americani hanno un po' esagerato, ecco. Non faccio discorsi tipo andate a farlo a casa vostra, no, questo no, per carità, noi siamo una città del mondo, però rispetto, ecco, rispetto sì, ci vuole. Lo studente americano è solo una componente di queste folle non fiorentine che affollano Firenze. Naturalmente i fiorentini a un certo punto in qualche modo se ne stancano anche. E i fiorentini dove vanno a affollarsi per scappare alle folle straniere che affollano la folla di Firenze? Guarda, questa è una bella domanda, perché poi alla fine succede la stessa cosa a parti invertite. Ti parlo per esempio dell'estate, no? Noi abbiamo proprio come tradizione, appena viene il sole, andare al mare la domenica, cioè proprio è nel nostro DNA. Quindi Firenze si popola di turisti e si spopola di fiorentini. Però cosa fanno? Cosa facciamo noi fiorentini? Andiamo magari tutti nello stesso posto, come Calafuri a Livorno. E allora dove ci troviamo? In coda sulla strada panoramica a Calafuria, con i livornesi che ci prendono in giro, che loro escono di casa con le ciabatte, fanno due passi e sono già a fare un tuffo, no? E invece noi fiorentini siamo lì in coda. Però insomma, se impariamo dalle precedenti esperienze, basta fare quelle famose partenze intelligenti e ce la godiamo la nostra giornata di mare, o alle spiagge bianche. Le spiagge bianche è un altro posto storico per i fiorentini, che criticato da molti perché appunto dice che faccia male la spiaggia di Rosignano, fa male alla pelle, fa male, però insomma sembra di essere alle Maldive, e allora, ogni tanto ce lo concediamo. Se no, chi non ama molto il mare va a Viareggio, perché a Viareggio ci vai più che per il mare, per la passerella, però insomma, ma sinceramente io dico, se vuoi vedere i negozi se ne stai a Firenze, insomma, se ti vuoi fare un bel tuffo. Quindi ecco, l'estate, già la primavera inoltrata, il fiorentino insomma si defila un po' dalla sua città e la lascia volentieri ai turisti, che così la rendono ancora viva. Tranne che il 24 giugno San Giovanni, che è insomma un must per il fiorentino, e i fuochi vanno visti, perché i fuochi sono fuochi, per poi commentarli. insomma diventare un po' paesanotti anche noi, commentando il fuoco di quest'anno, che sicuramente era peggio dell'anno scorso, ecco, non sempre meglio quelle dell'anno prima, però i fuochi sono i fuochi, San Giovanni un po' l'inganni, come si dice, quindi ecco, 24 giugno molto spesso siamo qui tutti con il naso all'insù. I fiorentini scappano dalla folla per andare a crearne un'altra altrove, pertanto in questo paradosso ai fiorentini piace la folla. Ma alla fine sì, te l'ho detto, ce ne possiamo anche lamentare, ma poi insomma ci stiamo bene in mezzo alla gente, la scrutiamo un po' da lontano, non, molto spesso non ci vogliamo mescolare con chi non conosciamo, ma siamo un po' diffidenti, però insomma sì, ci piace la gente, dai, ci piace. Anche a voi piace, dai, perché poi da dove venite voi a fare le vostre uscite? Dove venite a fare le passeggiate, a fare shopping? Senz'altro veniamo a Firenze, anche se siamo un po' intimiditi da tutte queste persone. Ma va, non ci credo. È la dura vita della provincia. E con queste parole si conclude il primo episodio di Ratto di Campagna, Topolino di Città. Grazie per il topolino. Beh, il topolino perché? Perché vivendo in città e venendo a contatto con tante realtà anche di fuori, ci si affina tanto. Comunque voglio farti notare che nella storia del topo di campagna e il topo di città, il topo di campagna scappa dalla città solo esclusivamente perché c'è un gatto che lo vuole mangiare. Perché se no altrimenti ci starebbe bene, eh? No, dico, però alla fine in campagna è pieno di gatti, e allora dove sta la differenza? Parole saggissime, parole fiorentine, e vi aspettiamo alla prossima fiorentinata.